sono pronto, sono pronto. Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano. Dybala, sempre sulla linea dei trequartisti, palla all'interno dell'area di rigore. Che dirà! Juventus in vantaggio! Al 21esimo si sblocca il risultato. Un grande professionista come tutti nel gruppo che ho a disposizione, è un giocatore straordinario. Mi piacciono i giocatori, quelli bravi, e lui è di uno spessore diverso. Calcio d'angolo di Kayekon, tagliato a rientrare dentro, ancora lo stacco di Milik che fa addirittura doppietta, si presenta alla grandissima al San Paolo, 99 a segno ancora, 2-0 per il Napoli che adesso domina. Il ragazzo in allenamento mi lasciava sensazioni importanti, però bisogna prendere la doppietta per quello che è, bisogna lasciarlo crescere, bisogna fargli imparare la lingua, bisogna fargli imparare completamente il nostro modo di giocare. È un ragazzo giovane. Giovanni Vecchiori, redazione, Filippo Aureggi in regia. Meno di un'ora al via di Inter Palermo a San Siro, poi toccherà a Roma e Fiorentina contro Cagliari e Chievo, ma anche a Sassuolo. Ecco, ormai va considerato a tutti gli effetti una grande alla pari delle altre, tutti impegnati a cercare di cancellare l'impressione lasciata, inutile girarci intorno, dalla Juventus ieri sera, cioè che la Juve sia così forte da potersi permettere il lusso di vincere questo campionato in carrozza, anche rinunciando ai rinforzi di quest'estate, tenendo in panchina Pjanic che non ha fatto ancora un minuto, tenendo in panchina Higuain per tre quarti di partita, lo ha fatto anche ieri sera, insomma tenendo in panchina 145 milioni di investimenti sul mercato, eppure vincendo facile lo stesso. La Juve ha vinto 26 delle ultime 28 partite giocate in Serie A, mettendo insieme la rimonta dell'anno scorso e le prime due sfide di quest'anno contro Fiorentina e Lazio, quindi tutt'altro che banali, perché così aveva deciso il calendario. 8-0-0 24-0-0 24. Io non so se la pensate anche voi così, vi aspetto, siamo in diretta fino alle 19. Dicevamo, meno di un'ora all'inizio di Inter Palermo, ho visto le immagini adesso su Sky di Tohir che spiega ai cinesi di Suning come è fatto San Siro. Non lo so, perché c'è anche questo oggi nel pomeriggio di San Siro, dove andiamo dal nostro Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Giovanni, ben ritrovati. Sì, un San Siro tutto nuovo, messo a lucido per la visita dei nuovi proprietari. Ne parliamo anche di questo con l'inviato della Gazzetta dello Sport, Mirko Graziano, che dopo sei anni di Juventus torna a scrivere di Inter, quindi direi persona penna quanto mai qualificata a darci il quadro del campionato a questo punto. Mirko, notizia di queste ore è che l'Inter c'ha i soldi, ritrovi un Inter che c'ha i soldi, arriva José Mario, arriva Gabigol, questa è notizione. Beh, sicuramente il segnale dato in queste ultime ore è di grande potenza, cioè sono arrivati, hanno staccato un assegno da oltre 70 milioni e hanno portato a casa due giovani molto forti, interessanti, comunque ripeto, proprio un segnale di grande forza e di voglia di rinforzare seriamente questa squadra. È una bella cosa per l'Inter, una bella cosa per i tifosi dell'Inter e una bella cosa forse anche per il campionato, perché come diceva Giovanni, l'impressione data dalla Juventus è quella dello strapotere, cioè di una squadra che vince col pilota automatico, perché a Roma ha vinto col pilota automatico e senza il vero mercato fatto quest'estate. Sì, aspettavano te, Mirko, per rimettere dei soldi nell'Inter. Sei anni fa c'era Moratti nel pieno delle spese per il triplete. Ma sì, tu trovi qualche differenza, o meglio, andando ancora un po' più sottile, perché hai ragione, il segnale, poi vedremo se João Mario serve, se Gabigol è un crack o soltanto uno dei mille brasiliani che se ne vanno dal Brasile con l'etichetta dei nuovi Pelé, però conta il segnale in questo momento. Hai l'impressione che questi cinesi abbiano ascoltato qualche suggerimento di Moratti, che spesso ad esempio rimproverava a Toir di non essersi presentato con il regalo come lui aveva fatto? Ma forse anche perché Toir non aveva le possibilità, i cinesi sicuramente hanno ascoltato tutti, ma credo che proprio il segnale che abbiano voluto dare è proprio quello di dire: occhio perché noi facciamo sul serio, occhio perché siamo qui per costruire una grande squadra. Poi, come dicevi tu, tutto questo va al di là dei giocatori che sono stati presi e di ciò che riusciranno a fare in campo, anche se João Mario secondo me è un grande giocatore, mentre Gabigol è un progetto di grande giocatore, ma è proprio il modo in cui si sono presentati e l'atto di forza, no? Mi arrivano 70 milioni, ecco, questo vuol dire che l'Inter è pronta a competere anche per i grandi calibri, è pronta ad entrare sul mercato che conta, è pronta a provare a infastidire una Juventus che però, ripeto, parte con anni di vantaggio, che l'Inter deve inseguire una struttura solidissima come quella della Juventus, che quest'anno dopo 6 anni è arrivata a puntare, a poter puntare seriamente all'Europa che conta. La Juventus è una delle 3-4 grandi favorite della prossima Champions League, senza storie. Dario. Ecco, no, Mirko, a questo punto la patata bollente però è nelle mani di Frank De Boer, perché il clima è questo qui, già di festa, però la controprestazione del Chievo è già in classifica e porta 0 punti, arrivano i nuovi acquisti, sotto esame va il nuovo allenatore. Beh, insomma, innanzitutto servono 3 punti per calmare un po' l'ambiente, per consentire e per consentirsi da parte di De Boer una qualche settimana di lavoro un po' più sereno. Certo, perdere punti anche oggi sarebbe un problema, al di là che gli alibi non mancano a questo allenatore arrivato ad agosto inoltrato, con una squadra che stava recuperando i nazionali, con una condizione precaria, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come dicevi tu, insomma, Inter-Palermo devi vincere anche, la gente si aspetta che tu vinca, anche se non sei al massimo. E questi 3 punti sono fondamentali. Senti, ma sarà un Palermo che da qui magari a qualche ora potrebbe avere in rosa e quindi anche in rosa nero Mario Balotelli? Beh, sarebbe molto affascinante, sarebbe una scelta intelligente da parte del ragazzo. Ci sono in ballo però tantissimi soldi, e quando ci sono in ballo i soldi difficilmente poi prevale invece la scelta professionale, la scelta di vita, e secondo me invece Balotelli in questo momento avrebbe bisogno di una scelta proprio professionale, trovare un ambiente tranquillo per provare a ritirare fuori quei mezzi eccezionali che lui ha e che ancora può mostrare ad altissimi livelli, essendo un classe 1990. Io ricordo sempre che lui ha 26 anni appena compiuti, perché li ha compiuti ad agosto, a inizio agosto. Ecco, ricordo sempre che più o meno a quest'età, ma qualche mese più, qualche mese meno, quindi a quest'età Cassano accettò di passare dal Real Madrid alla Sampdoria e costruì di fatto una seconda carriera, probabilmente non all'altezza delle aspettative della prima, però una seconda carriera che ad esempio gli ha consentito di andare nel 2012 all'Europeo. Ecco, credo che Mario debba avere in testa questo se vuol tenere in testa un obiettivo per quella che è la seconda parte della sua carriera. Vi saluto chiedendovi 2 cose velocissime. La prima, se mi raccontate un po' qual è l'ambiente oggi a San Siro. Abbiamo visto stadi mezzi vuoti in questo inizio di campionato, anche ieri sera a Napoli, e la seconda, se ci sono le formazioni o se c'è qualche novità in vista. Guarda, formazioni ufficiali non sono ancora arrivate, però ti posso già dire che l'Inter dovrebbe essere quella più o meno letta sui vari giornali, quindi tridente con Eder, Perisic e Icardi, il solito centrocampo, Medel, Banega, Condogbia. Poi vedremo insomma come andranno a disporsi. L'ambiente, si attendono 40.000 persone da quello che sappiamo. Chiaramente Milano non è ancora rientrata in blocco dalle vacanze, quindi capiremo dopo la sosta insomma il reale affetto della gente per questa squadra, ma conoscendo un attimino l'ambiente posso dirti che questi 2 nuovi botti e questa ventata di entusiasmo e di forza portata dai cinesi risistemerà ancora una volta l'Inter in cima alla classifica degli spettatori durante le varie partite, durante il campionato. Non dimenticate che l'anno scorso l'Inter è stata la squadra più seguita nonostante una stagione di alti e parecchi bassi. Sì, va detto anche, Giovanni, per chiudere, che beneficia invece della cura Champions, della recente finale, sicuramente San Siro, no Mirko, che abbiamo ritrovato in condizioni decisamente migliori, decisamente bene. Insomma, Sì, è ridiventato un po' il salotto buono del calcio italiano, speriamo che l'esempio venga seguito anche da altri. Abbiamo trovato anche la mucchetta sì, per le scale. Ci fa un po' sudare oggi, però è molto molto gradita. Vediamo anche quanto dura. Quando, gli metteranno le scale mobili come al Bernabeu, saremo nel futuro. Vi saluto, saluto Mirko Graziano, Gazzetta dello Sport, lo ringrazio. Dario, con te ci risentiamo tra qualche minuto. Oggi racconteremo tutto di questo Inter-Palermo, che è una gara, e lo abbiamo cominciato a spiegare, che ha mille significati. Abbiamo il traffico, prima però voglio lanciare due temi. Il primo è quello relativo al Napoli, che credo forse da ieri abbia avuto la conferma di essere l'unica possibile avversaria della Juve. C'è però un tema, questo nervosismo di Sarri, che sinceramente mi pare eccessivo, anche se sull'espulsione di ieri io credo avesse ragione da vendere. Sarri. Io lo sono detto, ma che diavolo state facendo? E non c'era né tono minaccioso, né offese, né niente, quindi non lo so, molto probabilmente è più facile buttare fuori me che qualcun altro, da quello che vedo. Ma sai, buttare fuori un allenatore in tuta è più facile buttare fuori uno a doppio petto, probabilmente. Questa polemica sul doppio petto e la tuta, io francamente fatico a capirla. E la seconda invece voce è quella di Montella, che ieri a Sky ha fatto una battuta, forse gli è uscita male, sul sospetto che i cinesi abbiano sbagliato il bonifico, con questo facendo un riferimento al mercato del Milan che non c'è. Oggi ha fatto una precisazione Montella, ha detto, ho fatto una battuta in merito alla proprietà cinese dell'Inter, che ha investito parecchio, mentre quella futura del Milan è ancora in fase preliminare, quindi insomma non ha speso, ma nessuna polemica. Però la verità è che pochi istanti prima a Mediaset Montella sul tema c'era tornato e del mercato è deluso. Il giudizio non lo dà perché il mercato è ancora aperto e quindi vediamo nei prossimi giorni. Adesso ho qualche amarezza in più rispetto a quello che poteva succedere, non è successo dal mercato, quindi non ci penso. Mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate. 800 24 00 24, i temi sono qui apparecchiati. C'è João Mario che si sta presentando alla gente di San Siro, c'è già Paolo che ci ha chiamato. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati. Fabio manca perché ora devo trovare un altro che gioca a porticine con me o a pallacanestro. Per il resto ho dei buoni giocatori, ho dei grandi giocatori, e passano nelle società, passano gli allenatori, passano i giocatori. La Juventus è una grande squadra. Questo Allegri ieri su Pogba, che secondo me a questa Juve manca e tanto, ma non solo perché giocava a basket con Allegri. Vediamo cosa succede nelle prossime 72 ore con la caccia al centrocampista. Poi avremo un aggiornamento anche di mercato. Oggi ad esempio ufficiale la notizia di Zaza al West Ham, operazione da 28 milioni di euro. Vi leggo anche il comunicato di precisazione con cui De Laurentiis ha fatto chiarezza sull'ipotesi che circolava in queste ore e che circola ancora di un ritorno di Cavani a Napoli. Scrive Aurelio De Laurentiis: io sono un grande estimatore di Cavani, ma è difficile riportare nel Napoli un calciatore utilizzato nel passato, non tanto perché, dice De Laurentiis, sembrerebbe una minestra riscaldata, ma perché il Napoli evolve di torneo in torneo assumendo diverse e differenti teorie di gioco. E poi dice De Laurentiis: abbiamo bisogno di giovani, Milik e Gabbiadini possono trovare la loro consacrazione e non dobbiamo fare operazioni ad effetto, non abbiamo bisogno di incantare nessuno. Non credo che i tifosi del Napoli l'abbiano presa benissimo anche questa spiegazione sul fatto che non ritorni Cavani. Saluto subito Stefano Colantuono, che ringrazio. Stefano, buon pomeriggio. Gli chiedo un minuto di pazienza, c'è Paolo che ci aspetta. Paolo da Milano, Paolo. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Eccoci. Io sono tifoso del Juventino e riguardo l'espulsione di Sarri, secondo me, dopo che l'azione, vabbè, giustamente c'era il fallo, quando ha segnato, lui ha proprio, si vede che picchia sulla panchina, dice proprio una frase ingiuriosa. Non vorrei che magari l'hanno buttato fuori per quello. Adesso non so bene il regolamento se è possibile. Io so che tutti quelli che erano lì attaccati alla panchina, compresi dei giornalisti, che quindi non hanno nulla, nessun interesse a difendere Sarri, hanno raccontato di una protesta assolutamente misurata. Io credo, Paolo, ma allargo il discorso anche a Stefano Colantuono, che negli ultimi due anni, perché questo è un tema vivo già dall'anno scorso, si sia un po' esagerato con la tolleranza zero nei confronti degli allenatori. Insomma, esiste anche la tensione, la transagonistica, cioè, ci sono troppi cartellini rossi, almeno questa è la mia opinione. Stefano, riguardo al discorso allenatori, magari ci vorrebbe un po' più di elasticità tutto qua, perché l'allenatore, a differenza del giocatore, non può scaricare magari la tensione nervosa in una corsa o in uno scatto, o a volte magari anche in un tackle. Quindi l'allenatore sta lì e deve assorbire tutto, e a volte può scappare magari una parolina di protesta, e sarebbe importante che magari il quarto uomo, che è poi quello più vicino ed è quello magari deputato a segnalare all'arbitro determinate frasi o determinati atteggiamenti, avesse un po' più di elasticità, tutto qua. Sì, anche se poi, io l'ho detto prima, la lettura che dà dopo Sarri sulla facilità di espellere l'allenatore in tuta piuttosto che l'allenatore in doppio petto, secondo me, ecco, quello è un segno di nervosismo forse eccessivo. Sì, magari quella è stata, di Sarri è stata una battuta, da lui da Bontoncano ha fatto una battuta, insomma, riferita al doppio petto o alla tuta, però insomma, poi tra le altre cose è detta nel post partita ancora dentro c'è sempre un po' di adrenalina. E ripeto, io credo che un po' più di elasticità da parte di chi deve giudicare, e comunque anche gli allenatori, noi allenatori a volte andiamo un po' sopra le righe, non mi sembra sia stato il caso di ieri. Sì. Non ho visto un Sarri sopra le righe, ho visto un Sarri che ha fatto una protesta normale, chiedeva spiegazioni ed è stato allontanato, però ripeto, sono dinamiche che nel calcio ci stanno, ci vuole solo un po' più di buonsenso da parte di tutti. Ha ragione De Laurentiis, ho letto qualche minuto fa il suo comunicato a dire che al Napoli non serve Cavani. Io ho l'impressione che il Napoli non si sia necessariamente indebolito perdendo Higuain, e forse qualche conferma ce l'abbiamo. Ma certo, se giudichiamo la prestazione di Milik ieri sera, è chiaro che sembrerebbe che questo ragazzo, seppur giovane, seppur al primo anno nel nostro campionato, ho letto che ancora ha difficoltà con la lingua, però insomma si è presentato direi molto bene. Poi non dimentichiamoci che c'è ancora Gabbiadini, che è un ragazzo che io conosco, magari va in forma, gli ci vuole un po' più di tempo, è un giocatore muscolare, un giocatore che c'è grande forza. Quindi è chiaro, sostituire, aspettarsi i 36 gol di Higuain credo che sia molto difficile, però insomma credo che questi siano due giocatori all'altezza, sempre che però poi Gabbiadini manifesti, su questo sono d'accordo con le parole di Sarri di ieri, credo nel prepartita, sempre che Gabbiadini manifesti la voglia di rimanere a Napoli, la grande voglia di rimanere a Napoli, qui ha grande voglia e si mette in discussione e se la gioca con Milik, credo che lui abbia tutti i mezzi per poter fare il titolare, perché reputo Gabbiadini un giocatore molto forte. È chiaro che se ha qualche dubbio, allora probabilmente è meglio che cambia. Sì, chi rischia di più oggi tra Inter e Roma, restando diciamo alle grandissime, quelle che aspirano a fare corsa di vertice? Beh, sono due partite che nascondono delle insidie diverse. È chiaro che l'Inter gioca in casa contro il Palermo e sulla carta ha il favore del pronostico, poi anche per il fatto che gioca in casa, sono due squadre veramente diverse come valori, l'Inter è sicuramente più forte del Palermo, però il nostro campionato sono frasi dette, ridette, trite, ritrite, riserva sempre molte, molte sorprese. La Roma secondo me deve stare attenta, perché Cagliari è una squadra che è stata allestita molto bene, bisogna fare i complimenti alla proprietà e al direttore, hanno fatto una buonissima squadra formata da giocatori che, tra le altre cose, qualcuno lo conosco, molto bravi per quel tipo di campionato. Io credo che Cagliari potrebbe essere, una volta che sarà entrata bene in forma, avrà carburato, potrebbe essere una sorpresa. Mi è piaciuto molto come è stata costruita questa squadra. Quindi la Roma dovrà fare molta attenzione. Sì, anche perché poi c'è il contraccolpo psicologico di quello che è successo in settimana e vedremo insomma se la Roma sarà capace di superarlo. C'è un amico che ha scritto 349-238-6666, a proposito ne parlavamo anche prima di Balotelli, se Balotelli è pronto per Palermo e viceversa, io non so come la vedi tu. qua Balotelli è pronto per qualsiasi tipo di squadra. Se se lo mette in testa. Bravissimo. Cioè, lui, lo deve capire lui. Io credo che Balotelli non c'è una squadra dove Balotelli non può giocare, ma mi riferisco da un top club europeo, figuriamoci poi nel Palermo. È chiaro che deve andare con la voglia di capire che per lui questi sono ora anni importanti, che possono diventare o possono essere o il grande rilancio oppure una carriera che è rimasta insomma così a metà strada. Dipende solo da lui, i mezzi tecnici ci sono tutti, la qualità c'è tutta, credo che dipenda solo dal ragazzo. So che ogni allenatore sognerebbe di avere un presidente che gli compra due giocatori 70 milioni in un giorno e glieli consegna in ritiro. Ma secondo te cosa passa oggi in questi minuti per la testa di De Boer, che comunque è sotto pressione, cioè, inutile nascondercelo, ha fatto degli errori lui stesso a Verona, ha mille scusanti però quando, e credo abbia già anche corretto il tiro, quando dice datemi 4 mesi per farvi vedere l'Inter, capisce probabilmente di dire qualcosa di inaccettabile. Sì, anche perché in Italia insomma 4 mesi è dura, che i presidenti in Italia solitamente i 4 mesi non te li danno da maggio a settembre e non sempre. Beh, ora è vero che all'Inter è cambiata la proprietà e probabilmente, non so, la filosofia dei nuovi proprietari sarà forse diversa. In Italia chiedere 4 mesi insomma sono un po' tanti. Io credo che l'Inter, bisogna riconoscerlo, ha fatto un esordio insomma non all'altezza. Ora sono arrivati due giocatori molto importanti, ha comunque una rosa di giocatori importanti. È chiaro che, a mio avviso, rispetto alla Juventus, rispetto alla Roma e anche al Napoli, vuoi queste squadre perché si conoscono già meglio. Ora l'Inter è un progetto tutto nuovo, con un allenatore nuovo che dovrà un po' ripartire da zero. Credo che queste squadre siano un tassellino sopra, però credo che ha tutte le possibilità e tutti i mezzi per rimettersi in corsa. È chiaro che non in 4 mesi, bisogna farlo nel minor tempo possibile, credo. Ha ragione Montella a essere un po' giù di morale per il mercato del Milan. Cioè, di la verità, un allenatore arriva al Milan e si aspetta insomma di essere arrivato al Milan con tutto quello che significa. Sì, però Vincenzo, che è un ragazzo molto intelligente, oltre che un bravo allenatore, sa benissimo che al Milan anche questo è una sorta di anno zero, una sorta di ricominciare. È cambiato insomma anche lì qualcosa, sono arrivati giocatori giovani. Quindi c'è bisogno di ricostruire un assetto, una squadra, una mentalità. Credo che lui sia la persona giusta per poterlo fare. Ecco, lì magari ci vuole forse ancora un po' più di tempo rispetto a quello che può essere magari dato all'Inter, però sono convinto che il Milan farà un campionato insomma di alta classifica. È chiaro, non gli si può chiedere dei piazzamenti importanti, oggi non ha la squadra per poter fare quello, però sicuramente col tempo avrà tutte le possibilità di rilanciarsi a grandi livelli. Grazie Stefano. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Stefano Colantuono. Tanto c'è chi dice avete già consegnato lo scudetto dopo due domeniche alla Juventus. No, però insomma la dimostrazione di superiorità in questo momento è evidente sotto gli occhi di tutti, di una squadra, ripeto, che per il momento ha fatto a meno di Higuain quasi completamente e di Pjanic. 800 24 00 24, prima della pausa facciamo Paolo da Udine. Paolo. Sì, buonasera. Eccoci. Io volevo parlare per la questione Milan. Sì. E mi sembra che questi cinesi siano molto latitanti, perché per fare una campagna acquisti danno 15 milioni, ho paura che a Milano non abbiano ancora messo piede e non abbiano, forse mi sbaglio, ma ho l'impressione che tutto rimanga come prima. Bah, insomma, questo vedremo, c'è tempo fino a novembre, però Paolo, qualche perplessità viene, perché quando si mette in piedi un'operazione da quasi 1 miliardo di euro, l'idea che poi si rischi di compromettere una stagione per discutere su 15 milioni di euro, effettivamente qualche perplessità la lascia, e io credo che dietro al malessere di Montella ci sia soprattutto questo, e la battuta di ieri a Sky, poi probabilmente fatta così davvero per fare una battuta sdrammatizzante, ma che è un po' il segnale di questo malumore, io credo che non sia casuale. Lo abbiamo sentito pochi minuti prima, aveva detto chiaramente che si sarebbe aspettato qualcosa in più dal mercato, e io credo anche ha ragione, perché sta facendo un lavoro dignitoso, però ad esempio per dare equilibrio a una squadra che equilibrio in difesa non ha, avrebbe bisogno di qualcosa dal mercato, e ieri Galliani gli ha detto che non arriverà. 800 24 00 24. Fra pochissimo torniamo anche a San Siro per le formazioni ufficiali di Inter Palermo. Ci fermiamo un minuto e siamo di nuovo qui. È la vita, chi vince è un bel ragazzo e chi perde non vi dico che cosa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Tra l'altro ho chiesto ai ragazzi di farmi passare una bella sosta, che è una cosa molto importante, passare una sosta con una bella vittoria, e quindi ringrazio i ragazzi per questo regalo che mi hanno fatto. Quindi ho 2 giorni di libertà e al mercato c'è, cioè, la società, che credo che non abbiano bisogno di suggerimenti visto il mercato che hanno fatto fino ad ora. Diciamo che la torta l'abbiamo già cucinata bene ed è gustosa, manca la ciliegina, se si riesce a trovare la ciliegina bene, se no ci accontenteremo della torta. Però ribadisco come questo gruppo comunque è un gruppo che può rispondere bene a quelli che sono i nostri obiettivi. Questo è Allegri e Marotta ieri sera a proposito del mercato, della ciliegina, della torta. Tra pochissimo torniamo a San Siro dal nostro Dario Ricci per le formazioni ufficiali di Inter Palermo. Intanto Max Nerozzi, inviato della Stampa. Ciao Max. Ciao. Io credo, Max, che Matuidi, che è sfumato, e chi oggi la Juve sta cercando per il centrocampo, sia però un po' più di una ciliegina sulla torta, almeno guardando in prospettiva Champions League. Insomma, lo diciamo dall'inizio della trasmissione, la dimostrazione di forza della Juve in queste prime 2 giornate in campionato è stata impressionante. Però, che dire con la K iniziale? Che dire? Sono d'accordo con te. Sono d'accordo, perché la questione non era tanto vincere il 6° scudetto, non è che sia già vinto, per carità, però è chiaro che la storia mira il 6° scudetto, ma anche l'economia e l'ambizione vanno alla Champions League. E non c'è Pogba, si sono sostituite le capacità tecniche di Pogba con i piedi di Pjanic. Secondo me non si è ancora sostituito la forza fisica che Pogba aveva. E quindi effettivamente manca un Matuidi, un Matic, per completare questa che sarebbe una super squadra. Ma c'è il rischio che la Juve si sia un po' fatta sorprendere da questa vicenda? Ora, l'analogia che tutti fanno è l'anno scorso con il caso Draxler, inseguito per un'estate, o comunque un centrocampista avanzato, doveva essere lui. Poi si arriva a fine agosto, poi si scopre che c'è qualcuno che offre di più e si ripiega su Hernanes. C'è il rischio che la Juve in questi finali di mercato si faccia un po' prendere la mano? C'è il rischio, ma penso che siano due cose diverse. Nel senso che la Juve si era messa avanti l'anno scorso, se ricorderai, con gli acquisti già a giugno e quest'anno con quello di Pjanic. Io penso che sia stato soprattutto un fatto mentale, cioè che l'ingaggio di Pjanic avesse già messo lì su Prato il post Pogba, perché si sapeva che Pogba molto difficilmente si sarebbe riuscito a trattenerlo. E poi, sai, quando arrivano gli ultimi giorni di mercato, le richieste di giocatori aumentano e le richieste di soldi aumentano aumentano i corrispettivi. Diventa difficile adesso andare a trattare Sissoko o Luis Gustavo, o io non so, insomma, quale sia il nome in poll. E a 72 ore dalla fine del mercato non è facile anche trovare un podio. No, non è facile, nel senso che i due preferiti già da un mese erano Matuidi, come dicevi tu, e Matic. Probabilmente, forse la Juve sperava di riuscire a prendere Matuidi. Adesso rimangono sul piatto Sissoko, dicevi tu, ma le richieste sono ancora più alte che su Matuidi, e non penso che la Juve si spinga a fare follie. E Luis Gustavo, il Vosbu, per adesso non lo vuol cedere, e sai, poi come dice Allegri, non è che la Juve può comprare tanto per comprare, e il rischio forte è che rimanga così. Sì, l'ha già fatto un anno fa, perché poi abbiamo scoperto delle parole di Marotta che a Hernanes era stata davvero una soluzione di ripiego. Max Nerozzi, quanto manca per vedere Higuain e Pjanic protagonisti? Manca questa sosta. Higuain tra l'altro non andrà in nazionale e quindi si metterà in peso forma, forse, anche se lui non è mai stato uno longilineo, e poi dopo la sosta delle nazionali rivedremo sia lui che Pjanic, ma per Pjanic era soprattutto un fatto della botta rivegliata a Harper Rosa. Però ecco, Ma era quello o dietro quelle parole di Allegri sul fatto che Pjanic fosse abituato ad altri tipi di allenamento, c'era anche marcare un po' la differenza tra Roma e Juventus. C'è anche quello, perché si ricordi anche l'avviamento lento di Dybala, voluto per questioni di potenziamento fisico l'anno scorso, sicuramente gli allenamenti della Juve sono fatti sentire, insomma non è da oggi la polemica che si fa sempre dalle parti di Trigoria sugli allenamenti della Roma, insomma non siamo noi che lo scopriamo. Però al di là dei recuperi fisici, io torno alla tua apertura sul centrocampo, insomma qua a Torino c'è il quadrilatero romano che è il centro della città, e il quadrilatero di centrocampo la Juve non c'era più, cioè Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal non ci sono, e io penso che si ripartirà da quello e da un sostituto che veramente metterebbe a posto le cose fisicamente, altrimenti in Champions League secondo me la Juve resta in prima fila ma non in primissima. Sì, ha scritto un amico: non pensate che Barcellona, Bayern e Real Madrid siano ancora più forti? In questo momento forse sì, però se dovesse arrivare quel centrocampista importante, che non può essere Asamoah, ieri Marotta ha detto Asamoah sta bene, è tornato protagonista, per carità, però a quei livelli credo che Asamoah sia un'alternativa. Sì, cioè, sì, è un ottimo giocatore, però secondo me ci stiamo un po' dimenticando tutti la Coppa d'Africa anche. Va via. C'è anche Lemina e Benatia, e quindi sai, quando c'è la Coppa d'Africa, poi Asamoah un anno dopo la Coppa d'Africa tornò con diversi problemi fisici, è sempre un'incognita, piantata poi a metà stagione. Ci vorrebbe un'altra pedina, francamente, perché Marchisio si perderà la prima parte di Champions League e Pjanic, Allegri sta allenando anche come da regista, che con Spalletti l'aveva fatto un paio di volte. E poi diciamo la verità, che Dira è straordinario e lo dicono i numeri, lo dice il modo in cui gioca, ma l'anno scorso ha fatto 25 partite su 50. Ha fatto 25 su 52, su 52. Possibili, e le altre due prima non ha superato i 20 per i problemi fisici che tutti sappiamo, si ruppe un ginocchio, e quindi è un giocatore fantastico, come diceva Allegri ieri sera, è però un giocatore che la sua storia degli ultimi 3 anni è questa, dopodiché i tifosi juventini chiama il calcio, si augura che Dira faccia 50 partite quest'anno. Tutti autorizzati a qualunque scongiuro, però i numeri sono lì. E quindi attenzione a non farsi ingannare nemmeno dalla maniera splendida in cui è iniziato la stagione che Dira. Grazie Max. A voi, ciao, buon pomeriggio. Grazie Max Nerozzi. 800 24 00 24, vi aspetto. Poi parliamo anche dopo, a proposito di questo paragone tra Milik e Higuain, e vi ho letto prima che cosa ha detto De Laurentiis di un ritorno di Cavani, eventuale a Napoli. Torniamo a San Siro, Dario Ricci. Dario. Eccoci, abbiamo sia il nostro nuovo ospite, Maurizio Pizzoferrato, grande collega dell'agenzia Aria, ma anche grande tifoso interista, e anche le formazioni ufficiali. Partiamo con le formazioni, Giovanni, sì. Infatti, con di fatto confermate quelle previste, con Inter che schiera Handanovic in porta, D'Ambrosio, Miranda, Murillo e Santon in difesa, centrocampo a tre con Medel, Banega, finalmente cabina di regia, e con Dogbia davanti il tridente con Eder e Perisic a supporto di Icardi. Confermata anche la formazione del Palermo con Posavec in porta, difesa a tre con Andelkovic, Goldaniga e Vitiello, a centrocampo a 5 Alesami, Ciocev, Gazzi, Igliemark, Rispoli e Kaizon in attacco a supporto di Nestorovski. Allora, Maurizio Pizzoferrato, partita che è già un esame per Frank De Boer dopo il pessimo esordio col Chievo. Sei stato tra i più critici rispetto all'esordio nerazzurro a Verona, anche sui social non hai risparmiato qualche stoccata a un De Boer che finora non ti ha convinto. Quello che si è visto a Verona penso sia proprio un dato oggettivo, nel senso che sembrava uno messo lì per caso, perché alcune scelte sono state proprio incomprensibili. Penso alla sostituzione di Banega, l'uomo più tecnico, quando l'Inter era in svantaggio e mancava ancora mezz'ora alla fine, per tenere in campo magari un Medel che in quel momento serviva poco, e il passare a tre dopo 10 minuti in difesa con Miranda schierato al lato dei tre difensori, Perisic in panchina dal primo minuto, l'uomo più forte forse in questo momento di questa Inter. Quindi è chiaro che De Boer, dato che poi ha perso anche la partita e il Chievo l'ha vinta in maniera netta, è chiaro che si è prestato a queste critiche. Ora, io non penso che De Boer non sia un allenatore, ha tutto il tempo per dimostrare invece di essere una scelta giusta, fermo restando che Mancini avesse fatto il suo tempo all'Inter, però già da oggi lo deve dimostrare in una giornata molto importante, perché ieri praticamente per la prima volta in maniera forte Suning, azionista di maggioranza del club nerazzurro, ha dimostrato che cosa voglia fare per l'Inter. Sono buone notizie per i tifosi neroazzurri, quindi questi due nuovi acquisti. Ancora non è completa l'opera, mi pare di capire dalle ultime informazioni che abbiamo che si va a fare anche un difensore, Cáceres in pole position, quindi l'Inter dopo la sosta avrà la sua fisionomia definitiva, però oggi deve vincere la partita e convincere, anche perché ci saranno 40.000 spettatori, a dimostrazione che i tifosi dell'Inter sono quelli che riempiono lo stadio più di tutti in Italia e meritano delle soddisfazioni. Maurizio, sembra... hai avuto l'impressione, tu che segui da vicino l'Inter, che ci sia stata anche una sorta di autocritica interna? Io so che lunedì chi conosce bene il calcio italiano è salito alla Pinettina, ha spiegato a De Boer che cosa era stato sbagliato tatticamente a Verona, cosa non ci si può permettere nel campionato italiano. In maniera un po' maliziosa mi viene in mente che si poteva anche fare prima, sapendo che era arrivato da 10 giorni. Ho captato alcune parti della domanda, mi pare di aver capito se De Boer è stato catechizzato rispetto agli errori fatti e forse lasciato un po' da solo prima. Ho saputo che gli è stato detto di seguire il suo calcio, lui non si è adattato al Chievo, troppa paura a far vedere che non è un che insegue solo sogni, e quindi 4-3-3 basta, ha tentato di fare una cosa che secondo lui fosse più funzionale in un momento in cui a sua detta la condizione fisica non è ottimale, ma gli è stato detto no, noi ti abbiamo preso per fare il calcio che conosci, quindi non aver paura, non è l'eventuale sconfitta che può preoccupare, ma il fatto che lui non schieri la squadra secondo le sue idee tattiche. Quindi questa è un Inter che deve giocare in un certo modo ed è stato invitato a giocare in un certo modo. Dario, poi abbiamo il traffico. Ecco Maurizio, non ti sembra un Inter che di colpo si è liberata dal mancinismo? Non lo so, probabilmente Mancini non aveva più sintonia con l'ambiente, però è anche l'allenatore che ha ottenuto il miglior risultato degli ultimi anni, non ha ottenuto la Champions League, però l'Inter era arrivata quarta, per metà campionato era stata prima in classifica, probabilmente lui pensava che con un paio di rinforzi si potesse arrivare a Dama, cioè questa Champions League sospirata, però quel suo continuo dire di no a tutto chiaramente l'ha messo in contrapposizione con gran parte della società, non tanto con i cinesi che volevano rinnovargli il contratto, ma con il duo Toir Bolingbroek, che è il paradosso, che i due se ne andranno fra poco, Toir è socio di minoranza, ma adesso proprio investito da Suning ha un grande potere e Toir aveva De Boer in testa da tanto tempo. Sì, ce l'aveva da quando è arrivato. Vi ringrazio tutti e due, grazie Maurizio Pizzoferrato e grazie Dario Ricci, da quale però torneremo per raccontarvi anche la partita dopo il GR delle 18. 800 24 00 24. C'è chi dice che manca anche Morata alla Juve, ed è assolutamente vero, anche se Morata l'anno scorso nella Juventus non ha avuto un ruolo di primo piano, non è stato un titolare. Il titolare era Mandzukic, che è un giocatore importante, lo dimostra anche il fatto che abbia iniziato questa stagione titolare pur avendo alle spalle un giocatore costato 90 milioni di euro. 800 24 00 24, vi aspetto. Adesso c'è il traffico, poi torniamo. Basta vedere la Juve vincendo questo scudetto, io non te la faccio più. Tutti convocati. Tutti convocati. Raikkonen che si infila alle spalle di Rosberg con Verstappen che risponde, con Vettel che va all'esterno, il contatto tra i due piloti a Ferrari e Vettel che rimane lì nel traffico giù allo Rouge insieme con pezzi di ala che se ne vanno sulla Ferrari ma anche sulla Red Bull di Verstappen, e tocca molto, danneggiata la Ferrari, contatto dopo la Cina, ancora una volta i due piloti della Ferrari, ancora una volta contatto al via tra Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Quanto bene avevamo fatto ieri, soprattutto le possibilità, le grandi possibilità che avevamo oggi di mettere almeno due piloti sul podio. Peccato perché ci credevamo tutti, ma adesso bisogna girare pagina e guardare a Monza, che è il nostro gran premio. Questo Maurizio arriva bene oggi dopo l'ennesimo Gran Premio di delusione per la Ferrari, Gran Premio di Spa in Belgio, vinto da Rosberg davanti a Ricciardo, terzo Hamilton, che dunque ha completato quasi interamente la sua rimonta dall'ultima posizione, poi le due Force India di Hülkenberg e Sergio Perez, poi Vettel, Alonso, Bottas e Kimi Raikkonen. Saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao, ciao, buon pomeriggio. A me è venuto in mente questo pomeriggio, vedendo quella prima curva e quei primi 200 metri in cui si è consumato il Gran Premio di Vettel e Raikkonen, mi è venuto in mente il famoso sketch di Tafazzi. Poi è vero che Verstappen ci ha messo del suo, e anzi è sicuramente, o almeno questa è la mia opinione, responsabile di quello che è successo alla prima curva. Però io ho l'impressione, ad esempio, che Vettel abbia tirato dentro anche perché sta soffrendo un po' questa stagione. Sicuramente, io nel mio commento fatto su Gazzetta.it ho scritto che l'80% delle colpe è di Verstappen, ma Vettel ha un suo 20%, mentre il povero Kimi ha fatto la parte del prosciutto e del formaggio in un toast, insomma è stato schiacciato tra i due incolpevole. Verstappen ha visto un'opportunità e ci si è tuffato dentro, non contando che difficilmente le gare si risolvono alla prima curva. Aveva quasi tre delle quattro ruote sul cordolo, quindi era proprio quasi impossibile passare. Dall'altra parte però Vettel l'ha stretto troppo alla sua orsa, che è quasi un tornantino. Se si vedono le immagini o le fotografie, si vede che lui alla sua sinistra aveva davvero tanto spazio, avrebbe potuto fare la curva più larga, però il fatto di essersi ritrovato ancora dietro a Kimi in partenza, di essersi ritrovato dietro a Kimi dopo lo scatto della prima curva, probabilmente lo ha fatto vedere un po' nero. Si è capitato qualche altra volta quest'anno, lui sta soffrendo più del previsto la concorrenza di Raikkonen, non è ancora il Vettel dell'anno scorso, non è più il Vettel dell'anno scorso, purtroppo quest'anno qualche errorino di troppo lo fa anche lui e oggi qualche colpa nell'incidente a Raikkonen ce l'ha, non tante quanto Verstappen, ma un po' le ha, lui stesso lo ha ammesso che se si fosse accorto di quello che stava succedendo alla sua destra probabilmente avrebbe preso la curva un po' più alla larga. Sì, non è una buonissima notizia per la Ferrari anche in prospettiva che Vettel perda lucidità così. Credo che la Ferrari anche nei prossimi anni, anche nelle prossime stagioni, terrà sempre comunque ferma la convinzione che sia più giusto avere due piloti di un certo livello, anche in competizione tra di loro. Assolutamente, io credo che sia l'unico modo perché si stimolano uno con l'altro. C'erano dei dubbi che Raikkonen potesse essere questo tipo di pilota, invece Kimi quest'anno sta facendo una stagione sicuramente positiva, forse più positiva anche del suo compagno di squadra, e quindi la sua conferma è anche dovuta al fatto che si sta comportando in un certo modo. Credo che comunque i piloti Ferrari, a parte gli errorini di ieri e quelli di oggi, non abbiano nessuna colpa in quella che è stata la stagione negativa fino ad oggi della scuderia. Le colpe sono di ben altre persone e anche di chi ha messo loro addosso troppa pressione, in modo di mandarli a cercare a prendere qualche rischio più del dovuto proprio nelle prime fasi della gara, quando oggi comunque avrebbero dovuto cercare in tutti i modi di stare davanti a Verstappen, che partiva con gomme più tenere e che quindi poi sarebbe stato più difficile da superare. Per cui questo eccesso di pressione che è stato messo loro addosso da chi chiedeva di vincere il campionato quest'anno sicuramente non è producente, anzi produce più nervosismo del solito, soprattutto sul povero Vettel. Sì, credo continui a essere anche poco produttivo il messaggio che viene lanciato di concentrarsi su questa stagione, inseguire una vittoria quando gli altri, lo abbiamo capito, sono già abbondantemente al lavoro per il 2017. È vero che anche in Ferrari si sta lavorando direttore per il 2017, ma si continua a inseguire anche qualcosa che avrebbe un peso specifico, credo anche quasi nullo, pur dovesse arrivare una vittoria da qui alla fine di questo campionato. Io non so che cosa sposterebbe nel giudizio di questa stagione, se non qualcosa a livello numerico. Hai perfettamente ragione, non salverebbe sicuramente la stagione, sarebbe utile perché toglierebbe, cancellerebbe uno zero da una casella che è sempre antipatico delle vittorie in una stagione, però sicuramente non cambierebbe il giudizio su una stagione comunque negativa. Io spero che la Ferrari rimanga sì concentrata per cercare di cogliere una vittoria quest'anno, che comunque cancellerebbe lo zero, però dedichi gran parte dei suoi sforzi a costruire, a progettare la macchina dell'anno 21, anche perché c'è tutta una struttura all'interno della Ferrari da collaudare, perché è appena cambiato tutto e si sta lavorando con uomini che arrivano dall'interno della scuderia, quindi con uomini che già c'erano, non c'è nessuna arrivo dall'esterno che possa portare esperienze da altri team, quindi è importante che la squadra si concentri bene su quella che sarà la macchina dell'anno 21, quando i regolamenti cambieranno molto e in modo importante dal punto di vista dell'aerodinamica, un punto dove la Ferrari è sempre stata deficitaria negli ultimi anni, purtroppo. Sì, tra l'altro si cambia tutto e se si parte dietro poi significa dover remare per anni per inseguire. Ti faccio sentire gli amici a casa. C'è chi dice l'anno orribile della Ferrari, io credo che abbia ragione chi scrive così, ma anche perché era stato caricato di mille aspettative anche eccessive questa stagione. Faccio sentire arriva bene, perché tra una settimana si corre a Monza, che per la Ferrari è un gran premio particolare. Mi sembra che arriva bene abbia usato i toni giusti per preparare questa settimana. Riguardo a Monza, ve l'ho detto, noi teniamo i piedi per terra, qui abbiamo dimostrato di lavorare bene, abbiamo dimostrato che la gente a casa e qui c'è, adesso giriamo pagina, concentrati su Monza perché è il Gran Premio d'Italia e per noi è importante. Piedi per terra e quindi magari qualche volo pindarico in meno. A proposito invece del mondiale, Rosberg a Monza arriva con 9 punti di distacco da Hamilton, che credo sia il massimo che potesse chiedere, anche se magari una Ferrari in pista avrebbe reso più complicata la rimonta di Hamilton fino al podio. Sì, perché va detto che oggi comunque la Ferrari, se non avesse avuto l'incidente alla prima curva, probabilmente avrebbe avuto 2 macchine sul podio o in zona podio, perché la Ferrari era migliore di quello che ci aspettavamo qui a Spa. Lo abbiamo visto nella qualifica di ieri, era più vicina alla Mercedes, non credo da impensierire a Rosberg, ma sicuramente avrebbe potuto stare davanti a Ricciardo, quindi ha buttato via sicuramente dei podi, così sono 4 le gare senza podi Ferrari, avrebbe potuto aiutare Rosberg. Invece Hamilton è stato anche fortunato, perché come si è svolta la gara tra safety car e bandiere rosse, gli hanno consentito di risalire dalla penultima alla terza posizione, quindi praticamente di non avere danni dopo aver accumulato quasi 50 posizioni di penalizzazione in qualifica, parentesi regola sua, da questa di sommare penalizzazioni quando ci sono soltanto 22 macchine in pista. E Rosberg forse si aspettava un po' di più, si aspettava un Hamilton un po' più lontano, quindi non ha recuperato i punti che sperava di recuperare, quindi Hamilton resta il grande favorito di questo mondiale. Sì, assolutamente, anche perché poi insomma smaltita questa doppia penalizzazione, l'impressione è che si potrà tornare a vedere l'Hamilton di prima, quello di prima delle vacanze, che era diventato dominante a parte le prime 4 gare vinte da Rosberg. Ti rubo un minuto, ma anche meno, direttore, per chiederti cosa ne pensi del nervosismo malcelato di Montella sul mercato del Milan. Oggi c'è stata la precisazione, ha detto scherzavo, era una battuta quella sul bonifico, l'indirizzo sbagliato. Però io credo che sia la spia di un malessere anche fisiologico. Sai, quando incominci, lui nella prima partita della stagione l'unica novità che aveva rispetto al Milan dell'anno scorso era Paletta. Ieri aveva una novità che non ha fatto una grande differenza in difesa, Gomez. Mentre dall'altra parte di Milano abbiamo visto il grande investimento che è arrivato nel weekend, per non parlare di quello che è capitato alla Juventus, che già aveva un grande vantaggio, alla stessa Roma, e sta capitando al Napoli. Quindi il mercato del Milan è sicuramente un mercato deficitario, perché non sono ancora arrivati i soldi dei cinesi e i milanisti si augurano arrivino entro fine settembre, come stabilito dalla tempistica del closing. Però Montella dovrà aspettare fino a gennaio per avere dei rinforzi veri. E quindi è quasi il rischio di buttare via un altro anno. Lui sta lavorando sicuramente bene, ieri a Spratze si è visto un buon Milan, anche se sei una squadra che prende 7 gol in 2 partite ha evidentemente qualche problema in difesa e non lo scopriamo soltanto adesso, questo nonostante abbia un grandissimo portiere, perché anche ieri Donnarumma ha fatto 2-3 parate che hanno salvato il gol o dopo aver salvato il risultato. Montella ha capito tutto, Montella ha capito che c'è il rischio che questa sia davvero più di una stagione di transizione. Direttore, ti saluto, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio, buon proseguimento. Grazie a Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Pronto? Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli, dalla Veneranda, Casamadre di Genova. Grazie ai nostri esercizi spirituali saremo ora in grado di largire il latificio sul futuro di Frank De Boer. Ah, interessante. Figlio diletto, ripetete insieme a noi la formula. Utor Kalem, Frank Ausim. Lei non ripete. No, Vada. No, anche perché fra un po' inizia la partita, quindi ci deve dire qual è. Ausim de Bor, Pindon Ranocchia Bidon, Funing Utorisitau. Il rituale magico per esperire il vaticinio è finito. Così hanno sentenziato gli Elohim. Frank de Bor resterà sicuramente al 100% allenatore del Crotone. Torniamo subito. Nuove notizie. A più tardi. Pigia il coso rosso. Grazie. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, restiamo i microfoni aperti. Fino alle 19 Luciano D'Ancona e Gianni da Firenze sono già collegati. Pierluigi Pardo anche, ciao Pier. Ciao, come va? Bene, molto bene. Fammi andare subito a San Siro al nostro Dario Ricci, che così ci racconta i primi minuti di Inter-Palermo. Dario. Terzo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Palermo, quando è Santon che prova a trovare spazio sulla sinistra, ancora avanti l'Inter, il cross di Perisic, la deviazione di un Medel che in questi primi minuti è schierato quasi da trequartista, molto avanti, adesso sta apprezzando addirittura l'altezza della bandierina del calcio d'angolo, mentre regista basso opera Banega. Da segnalare prima del calcio d'inizio, due momenti diametralmente opposti, Giovanni. Prima il boato di San Siro a salutare la presentazione di Joao Mario, l'ultimo arrivato, il nuovo acquisto dallo Sporting Lisbona, il campione d'Europa portoghese, e poi il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terribile terremoto che ha colpito il centro Italia. Siamo al quarto minuto di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Palermo qui a San Siro. E insomma, questi sono i primi vagiti della prima Inter di Frank De Boer a San Siro. Pier, parlavamo prima con Colantuono, Inter che rischia tanto anche se l'avversario sulla carta è un avversario morbido. Io non so come la pensi tu, ma insomma, credo che oggi la pressione su De Boer sia parecchia. Sì, però penso anche che sia veramente la partita ideale, quindi con tutto il rispetto ovviamente, però Palermo mi sembra in questo momento una squadra un po' più in difficoltà, quindi credo che giocare comunque in casa contro il Palermo sia anzi un'ottima occasione per l'Inter per voltare pagina dopo Verona. Poi è chiaro che se dovesse mancare anche questo obiettivo faremo discorsi diversi, però io penso che l'Inter vincerà e vincerà bene, questo lo dico a prova così, senza, con sprezzo del pericolo, così se non dovesse andare in questo modo potrei prendere un giro ad libitum. Penso che non ci sia molto partita e credo che l'Inter ovviamente sia un progetto in divenire, in costruzione, sta facendo investimenti molto importanti, francamente la cifra spesa per Joao Mario mi sembra una cifra molto alta, lo dico sinceramente, è per un giocatore che ha sicuramente grandi qualità e l'ha dimostrato anche l'europeo, però è veramente un investimento molto molto importante, quindi secondo me è un po' esagerata, vedremo. Sì, prima della partita Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha anche annunciato che Brozovic resterà, perché evidentemente non ci sono offerte adeguate che vengano dall'estero e l'Inter, la Juventus, Brozovic non lo vende, e ha fatto capire che Jovetic invece è in partenza. 800-24-00-24, poi parliamo del Napoli, parliamo della Roma, parliamo del Milan e della delusione di Montella, per quanto oggi precisata, sul mercato dei cinesi. Luciano D'Ancona, Luciano. Ciao a tutti. Ciao a te. Niente, io volevo ritornare sulla questione che avevo detto dall'inizio su De Boer e sull'Inter. Sto ascoltando per radio, sto ritornando al lavoro e mi sono fermato in un autogrill. Praticamente io vedo un allenatore con tanta passione e molta determinazione, e faccio un parallelo con il primo Mourinho, che è arrivato da vincente all'Inter, poi si è dovuto un po' ricredere perché non conosceva il calcio italiano, e anche allora c'era Mancini, l'Inter era stata allenata prima da Mancini, e quindi insomma spero che lo straniero dopo il Mancini porti bene come l'ultimo straniero. Intanto Palermo vicinissimo al vantaggio con gol da Niga, poi ce lo facciamo raccontare da Dario Ricci. ve la racconto io. Calcio di punizione sulla tre quarti, traversone completamente sbagliata la linea del fuorigioco della difesa dell'Inter, Pierre, e gol Daniga in controbalzo a porta praticamente vuota, perché Handanovic stava andando a coprire sul traversone, non ha trovato lo specchio della porta, ma Inter davvero vicina a incassare il gol che avrebbe complicato parecchio anche questa partita. Io credo che il paragone, almeno iniziale, tra De Boer e Mourinho sia un po' azzardato. Diciamo, in comune hanno il fatto che sono stranieri. Sì. E ovviamente noi l'augurio che facciamo al nostro ascoltatore è che abbia ragione lui, perché che De Boer abbia passione non c'è dubbio. Che De Boer appartenga a una squadra calcistica enorme, enorme, pure. Senso che lui è Olanda, è scuola Ajax, c'è la cultura della crescita dei giovani, c'è la cultura del calcio, c'è la cultura dell'organizzazione, quindi è stato anche da giocatore certamente uno pieno di carisma, quindi nessuno discute, diciamo, il background, però quando è arrivato Mourinho all'Inter, Mourinho aveva già vinto, era già un allenatore fatto, finito, capace di grandi imprese, con una forza mediatica che era già enorme, anche se magari in Italia ancora non tutti lo conoscevano, quindi insomma il paragone non ci sta. Ci sta sicuramente invece il rispetto per De Boer, per ciò che è stato da calciatore, per ciò che è stato anche da allenatore, per la cultura calcistica di quel paese, che è una delle più interessanti e delle, devo dire anche delle più belle che ci sono in giro per il mondo, no? Proprio ha una filosofia di gioco, un modo di concepire il calcio e arriverei addirittura a dirti la vita molto molto particolare, molto molto bella secondo me. Quindi sicuramente cercherà un calcio offensivo e sicuramente dovrà cercarlo anche abbastanza in fretta. Il problema, è questo, ma, è questo. Ma anche a livello di condizione, visti i primi 8 minuti, ho l'impressione che l'Inter abbia la stessa condizione di una settimana fa, ed è anche normale che sia così. È che De Boer arriva in un Inter che è già sotto pressione, perché lo sappiamo, insomma, che chiaramente quando a Milano, lo dico, a Torino, insomma, le grandissime squadre, quando beccano una striscia di risultati così negativi negli anni, che sono così lontani dall'ultimo successo, è normale che ci possa essere un po' di impazienza da parte dell'ambiente, la cosa più logica del mondo. Quindi lui arriva con poco tempo a disposizione dal punto di vista psicologico nel rapporto con i tifosi, che vogliono tornare a vincere al più presto, e arriva con poco tempo oggettivo perché, come sappiamo, la squadra gli è stata affidata solo pochi giorni fa. Quindi c'è questo duplice elemento di tempo che secondo me rende tutto più complicato. De Boer è un allenatore di costruzione, su questo non ci sono dubbi. È un allenatore che per quello che ha dimostrato fino adesso non puoi valutare nei 2 mesi o nei 3 mesi, ma devi valutare nei 2 anni, 3 anni. E bisogna capire se il pubblico e la società avranno pazienza. Sì, assolutamente. Andiamo a San Siro. Dario Ricci, Dario. Decimo di gioco, 0-0, un Inter che, come raccontavate da studio, sembra ancora parecchio svagata. Raccontavi bene l'occasione, Giovanni, avuta al 7° minuto da Goldanica, bella fuga in questi istanti precedente il collegamento di Quaison sulla sinistra, ma stavolta attenta la retroguardia nerazzurra a chiudere con Miranda. Il tema tattico, lo spunto tattico più interessante è la posizione di Medel, che sta facendo decisamente fatica a trovare un giusto spazio in questo momento, in questo avvio di partita, perché sembra alternarsi in cabina di regia con Banega, ma si trova spesso fuori dalle sue zone abituali. Anche in questo istante praticamente sta operando in posizione di trequartista, e così come in questo momento si sono scambiati anche la fascia Eder e Perisic, il croato in questo momento è a destra. Comunque l'avvio positivo anche del Palermo, che sembra, come sottolineavate da studio, decisamente più in palla, almeno in questa fase iniziale, dal punto di vista fisico rispetto ai nerazzurri. Ancora 0-0 quando siamo all'11° di gioco. Sì, decisamente questa credo sia anche la conferma che le settimane serviranno anche semplicemente per far correre quest'Inter, che oggi fa anche molto caldo a Milano, va detto, ma sta un po' camminando come fatto a Verona domenica scorsa. Chiedo un minuto di pazienza a Gianni da Firenze. 800 24 00 24, c'è chi ricorda che Mourinho parlava l'italiano, Gaetano da Lucca, e anche questo fa la differenza, ma Mourinho da mesi sapeva che avrebbe allenato l'Inter. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. San Siro, Gianni da Firenze, parliamo anche del Napoli. Ci siamo incasinati e ho sbagliato, mi sono trovato nel traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Tredicesimo minuto a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Palermo, ed è partito meglio il Palermo, gara equilibrata, si gioca su ritmi bassissimi, Palermo che ha avuto una grande occasione al settimo con gol Daniga, lasciato solo in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione, la deviazione a colpo quasi sicuro, palla però fuori, 8-0-0, 24-0-0, 24, Gianni da Firenze, Gianni. Sì, buonasera. Eccoci. Volevo dire la mia sulla Juve, posso? Sì. Certo, vedendo la partita di ieri sera, io ho come la sensazione che la Juve abbia fatto un ternellotto vendendo questo Pogba, molto sopravvalutato secondo me, perché poi si è visto anche ieri sera che questa Juve dispone di due mezzali molto forti nell'interdizione e capace anche di essere risolutori sotto rete, vedi il gol di Khedira. Questa è la mia sensazione, per me ha fatto un ternellotto vendendo per quella cifra Pogba. Io non so cosa ne pensate voi. Io non credo, Gianni, cioè credo che abbia fatto terno all'otto per vendendolo a quella cifra, certo. Però ne parlavamo prima anche con Max Nerozzi, la Juve ha l'assoluta necessità, soprattutto per fare salto di qualità a livello europeo, di andare a prendere un difensore, un centrocampista importante al posto di Pogba. Andiamo a San Siro intanto. San Siro, Dario. Sì, il boato di San Siro è ingannevole, caro Giovanni, perché c'è stato la conclusione in porta, il diagonale di Miranda, uscito davvero di pochissimo, ma il difensore brasiliano era in posizione di fuorigioco, sì, quindi niente da fare. Lievissima, ancora... lievissima. Sì, però la segnalazione è stata immediata e quindi è ancora 0-0 sulla conclusione di Medel, che vista la sua posizione quasi appunto da difensore si è ritrovato il pallone al limite dell'area e ha tentato la conclusione da fuori. Seguiamo questa azione perché ancora Banega, sicuramente il più attivo in questa fase iniziale tra i nerazzurri, a lanciare in profondità tra Icardi ed Eder, ma la difesa del Palermo riesce a sbrogliare. Ecco, se c'è un dato da evidenziare, un altro da evidenziare in questa fase, che Banega, che anche in questo istante ha il pallone, sembra veramente voler prendere per mano la squadra e praticamente tutti i palloni passano per i suoi piedi, molto dinamico l'argentino anche a suggerire il passaggio ai compagni della difesa, quasi a voler iniziare l'azione come da compito prescritto da De Boer. Finora però risultati se ne vedono pochini. Intanto riparte il Palermo. Dario, sì, torniamo da te fra qualche minuto. Pier, se vogliamo chiudere la risposta, Gianni da Firenze sulla Juventus. Ma il terno all'otto, secondo me, sono d'accordo con te, è riferito alla cifra. La cifra è veramente molto importante, la Juve ha fatto una trasparenza grandiosa. Detto questo, Pogba rimane uno dei migliori centrocampisti d'Europa ed è un giocatore che la Juve ovviamente avrebbe preferito tenere, ma però a quel prezzo sta anche l'abbia venduto. La Juve ha grandi risorse, io sono convinto che Khedira, adesso forse siamo anche un pochino condizionati dai due gol, ma Khedira è un grande giocatore, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, è soltanto un giocatore un po' fragile dal punto di vista fisico. Penso che se Khedira non avesse questa fragilità che ha mostrato, si è fatto male nel precampionato a Marsiglia, poi si è rifermato anche ai tempi di Madrid, sappiamo che ha avuto una serie di problemi che lo hanno molto condizionato, insomma, se desse qualche sicurezza in più dal punto di vista fisico, secondo me la Juve avrebbe anche meno lo sfillo di dover andare a prendere un altro centrocampista, cosa che invece farà per rafforzare una squadra che secondo me è già molto forte, ma che con un centrocampista in più può ulteriormente regolare. Però Khedira è un grande giocatore, sì. Sicuramente non dimentichiamo che c'è anche Marchisio fuori ancora per un sì, po' sì, quindi... il problema di Khedira, i numeri li davamo prima, l'anno scorso ha giocato 20 partite su 52 possibili, e quindi insomma è un giocatore che dà poco affidamento. Ho l'impressione invece che da ieri sera un altro dei grandi temi dell'estate abbia cominciato a trovare risposta, e cioè quanto il Napoli si sia effettivamente indebolito nella sua fase offensiva senza Higuain. Mertens in aria, destro giro, palo interno e poi gol di Arkadiusz Milik. Non è più il Napoli del 9, è quello del 99. Due gol alla seconda giornata come Higuain o non è tempo di paragoni? Sarebbe ingiusto paragonare un fuoriclasse consacrato a un ragazzo di 22 anni che deve fare il suo percorso. Sono convinto che lo farà, sarà un percorso lungo, bello, però in questo momento sarebbe veramente ingiusto paragonarlo a Higuain. Intanto Goldanega prende un cartellino giallo per un'entrata durissima su Icardi alle spalle e io non so se l'hai vista, Pier, ha rischiato credo l'arancione più che il giallo. Come perché sto arrivando brutta. No, nessuno di noi fa il paragone subito dopo 180 minuti tra Higuain e Milik, però e saluto Raffaele Auriemma, io credo Raffaele, buonasera a te. Io credo, Raffaele, che insomma, da ieri sera, mettendo insieme le prime due partite del Napoli, la convinzione che Sarri abbia già in rosa la possibilità di ottenere lo stesso risultato offensivo, credo sia un po' più concreta. Non so come la pensi tu. No, io non sono dello stesso avviso, perché giusto non paragonare Milik a Higuain, anche se il ragazzo ha una bella sfacciataggine e era di superare qualche problema ambientale che avrà prima o poi, però non puoi andare avanti con Milik e con Gabbiadini, ma non perché Gabbiadini non sia all'altezza del compito, ma perché è più che chiaro che Gabbiadini non riesce a giocare nel modulo di Sarri e Sarri nulla fa affinché Gabbiadini poi possa esprimersi al meglio delle sue possibilità. Per come sta ormai il mercato sta per andare a chiudersi, secondo me Gabbiadini resta a Napoli. Anche lo scambio con Milik io lo trovo di un improduttivo commercialmente parlando. Con Kalinic? Kalinic. Perché Kalinic ha 4 anni in più rispetto a Gabbiadini e la Fiorentina vorrebbe Gabbiadini più una ventina di milioni o giù di lì. Non è giusto farsi prendere per la gola ora che il mercato è ormai alla chiusura finale. Allora si va avanti così, sarà compito di Sarri riuscire a far rendere Gabbiadini per quello che lui riesce a fare, cioè un calciatore che comunque ha la media di un gol ogni 109 minuti. Sì, quasi la media di un gol a partita quando viene utilizzato. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate tutti e due, Pierluigi Parra e poi Raffaele Auriemma, del messaggio di oggi di De Laurentiis su Cavani. Difficile che torni, perché il gioco del Napoli si evolve e quindi è difficile reinserire giocatori che ci sono già passati, poi non abbiamo bisogno di colpi ad effetto, non abbiamo bisogno di incantare a nessuno, messaggio evidentemente rivolto ai tifosi che anche ieri insomma sono stati freddini. Pier? Allora, varie cose. Qui chiaramente De Laurentiis sta semplicemente gettando acqua sul fuoco, potrebbe anche essere parte di una strategia per non illudere nessuno, perché magari la trattativa è molto difficile vista l'ingaggio del giocatore, ma non è questa la dichiarazione che ci dice al 100% che Cavani non arriverà. Per quanto riguarda la strategia complessiva degli attaccanti del Napoli, secondo me il Napoli ha sbagliato a fare una cosa, o meglio a non fare una cosa, a non crearsi un piano B. Quando il fratello di Higuain, proprio a Radio CRC, da Raffaele Auriemma, ancora in pieno europeo, quindi in piena Coppa America, aveva fatto capire con chiarezza che c'era la possibilità che Higuain se ne andasse, insomma, se l'hanno capito gli ascoltatori, figurati se non lo sapeva il presidente. Io credo che lì si potesse provare a giocare d'anticipo, cioè il Napoli potesse provare a vendere il giocatore prima, a cercare un compratore e al tempo stesso muoversi subito per avere un'alternativa tecnica. Questo non è successo, è evidente poi che la Juve ha fatto un grande acquisto, ha versato la clausola e quindi il Napoli si è trovato un po' spiazzato. Io penso che qualcosa in più davanti serva, credo che Gabbiadini sia oltretutto, se non ci si crede fino in fondo, per me è anche un discorso un po' di modulo, nel senso che se Gabbiadini ha bisogno di una punta e gli giochi vicino e nel 4-3-3 di Sarri fatica un po'. Se si è interrotto questo tipo di feeling, non c'è grande fiducia, visto che Gabbiadini è un buon giocatore a mercato, il Napoli può monetizzare, io non farei questa operazione, andrei per esempio forte su Kalinic o addirittura sullo stesso Cavani, e questa è la sostanza. Poi secondo me queste prime due giornate di campionato ci dicono un'altra cosa, cioè che la qualità che ci sono anche gli altri, ma l'abbiamo detto per un mese, guardate i numeri di Calleone e Mertens. No, e io ribadisco anche una cosa, cioè che Higuain, che rimane un giocatore meraviglioso, un attaccante tra i migliori al mondo, sicuramente l'anno scorso ha messo il turbo nell'attacco del Napoli, è stato un fenomeno, però è anche vero che il Napoli col suo modo di giocare ha contribuito al risultato trionfale di Higuaín, cioè un po' di quella produzione offensiva, alla Juve sono bravi, sono altrettanto bravi, però un po' di quella produzione offensiva potrebbe anche mancare a Higuaín, no? Quindi è stato un grande attaccante all'interno di una grande fase offensiva, quindi una cosa meravigliosa. Il problema del Napoli semmai è dietro, sì, il problema del Napoli semmai è l'equilibrio tra la fase offensiva e la fase ieri Sarri l'ha detto chiaramente anche numericamente. Raffaele, che effetto fa, insomma, che effetto fanno queste parole di De Laurentiis su Cavani? Ma le parole di De Laurentiis non le comprendo sinceramente, è un comunicato che non ha un senso specifico, perché diciamo la verità, il passaggio in cui dice Cavani non può tornare perché si evolve il modo di giocare del Napoli, sembra quasi che Sarri non lo voglia. Ma non è così, no? Non è così, ma non credo affatto che Sarri non voglia Cavani. Appunto. Diciamo che il presidente in questa fase vorrebbe riabilitarsi agli occhi dei tifosi che sono con lui, portando a spasso per il campo un grande nome. Non ci sta riuscendo, però non può dire non li vogliamo, non ci servono, perché lui in questo mercato ha trattato Icardi, ha provato a prendere Tevez, ha bussato alla porta del Tottenham per Kane e via discorrendo. Allora il grande nome lui lo deve portare. Secondo me, se De Laurentiis riuscisse a parlare in maniera più chiara e aperta al tifoso del Napoli, quindi non nascondersi dietro la volontà di arrivare a qualcuno che poi dov'è, sarebbe molto meglio, perché quello che serve al Napoli oggi è il coinvolgimento del tifo, che non c'è. Il Napoli sta facendo tutto da solo. Napoli è una città che ha dato sempre tanto in termini di passione, di calore, di spinta per la squadra, soprattutto con la squadra di Mazzarri. Ricordiamocelo, quel Napoli lì non poteva mai pensare di arrivare al secondo posto, visto l'organico. Eppure c'è riuscito. Di conto, il Napoli è una squadra potente, soprattutto a centrocampo, ha preso calciatori che potranno giocare di qui ai prossimi 7 anni, tra Rog, Diawara e Zinischi parliamo di gente di 18 ai 22 anni, c'è Milik che ha le stimmate del bomber, serve soltanto che la piazza creda in questa squadra, l'ampass, lo schiaffo ricevuto da Higuaín e la mancanza di un nome di ugual pregio, tutto questo lo deve fare De Laurentiis. Scendendo dalla sua imbarcazione, ormai è lì da un mese, e venendo a parlare a Napoli, pure se prende qualche pernacchia, ci sta, lo deve accettare, però il parlare chiaro serve affinché questa realtà partenopea si riaggreghi nuovamente a una squadra forte. Ma anche perché, Raffaele, scusa, ben 30 secondi, anche perché De Laurentiis, al di là dell'emotività del tifoso, rimane il presidente che ha riportato il Napoli a certi traguardi, quindi... Poi è chiaro, lo sappiamo benissimo, che il tifoso giudica il presente, quindi qualche pernacchia se la potrebbe anche prendere, però poi io penso che subito dopo la pernacchia... Di fondo dovrebbe esserci una consapevolezza e una gratitudine. Vi devo fermare perché intanto saluto Raffaele Auriemma, grazie Raffaele, alla prossima. Grazie a te. Ciao Raffaele, grazie. Vi devo fermare perché adesso abbiamo la pausa. Prima però 30 secondi a San Siro da Dario Ricci per Inter Palermo. 27esimo di gioco, ancora 0-0, tema tattico della gara che non cambia, un Inter che non riesce a trovare le giuste accelerazioni per mettere in difficoltà in Palermo, a parte il fallo subito al 18esimo minuto da gol Daniga, giustamente ammonito come ricordavi Giovanni, non ricordo altri palloni toccati da Mauro Icardi, che pur sempre dell'Inter è il centravanti. Sì, prima mezz'ora, se posso sbilanciarmi, davvero deludente, molto in linea con la partita di Verona più che con il proposito di vedere qualcosa di diverso in campo, però ci torniamo, 8-0-0-24-0-0-24, piccola pausa e poi siamo di nuovo da voi. Qui si fa fatica, ragazzi. Tutti convocati. Tutti convocati. Ritengo che tanto la società come il direttore, e al direttore, cioè, ritengo un uomo di molta parola, mi ha mostrato sempre fino a oggi questo, ha detto sempre che tutti i giocatori, i migliori giocatori, è per rimanere. il nostro mercato è chiuso, se non esce nessuno non arriva più nessuno. Oggi abbiamo ufficializzato Pasalic, che è un giovane talento, secondo me farà molto bene, sono arrivati altri giocatori e quindi è con questa squadra che affronteremo il campionato. Ho detto, se c'è da prendere dei giocatori prendetemi quelli bravi, poi in qualche modo li sistemo. Però non telefono, non chiamo, se c'è qualcosa di novità mi chiamano loro. Ultime 77 ore di mercato, andiamo subito a San Siro, dove l'arbitro Carmine Russo prima ha fermato tutti per il break, per il troppo caldo, e poi adesso c'è un calcio di punizione per l'Inter. Dario Ricci. Sì, interessante la posizione dal lato destro dell'area di rigore del Palermo, sulla palla Banega, pronto al cross a centro area Perisic ed Er, il movimento a smarcarsi di Icardi, che effettivamente si ritrova solo all'altezza del dischetto, il pallone va però sul secondo palo e Murillo lo devia, ma palla che finisce addirittura in fallo laterale. Dicevi del time out, effettivamente gli interisti si sono lamentati perché c'era una buona occasione di contropiede, ma Russo ha segnalato appunto che il time out era stato evidentemente deciso come da regolamento prima del calcio d'inizio richiesto dai due allenatori, e quindi al 28esimo è scoccato e inevitabile. 0-0 ancora il risultato quando siamo al 31esimo, Giovanni. Sì, io non so come la pensate voi, saluto anche Luca Marchetti, per carità legittimo, ma se poi c'è un contropiede, fischiare il time out per il caldo al 28esimo minuto e 0-0, insomma, un po' di flessibilità non farebbe male, no Pier? Sì, beh, ma questa però credo che sia comunque una prerogativa che rimane all'arbitro. Evidentemente da quello che ci racconta Dario Ricci, no. Sì, allora dovrebbe rimanere. No, sono d'accordo, è chiaro che tutto ciò che in qualche modo riguarda la salute dei calciatori, poi ovviamente la pausa è una pausa per consentire in circostanze molto calde, di grande umidità, comunque a dei calciatori che per quanto sono allenati, però insomma ovviamente giocano, ormai il calendario è fittissimo, giocano sempre di più, quindi cioè, di fronte a questo, di fronte alla salute, mi viene da dire, non c'è neanche da discutere, se c'è l'accordo da parte degli allenatori pure, poi ovviamente il calcio, lo sappiamo, è un gioco di episodi, non è la pallacanestro o la pallavolo, dove si tira magari 70 volte, dove ci sono 100 azioni in una partita, è un gioco di episodi, quindi è ovvio che può bastare una situazione per fare la differenza. Ieri, per dirti, il Lazio-Juve non arrivava mai il momento, però poi la situazione anche stradale molto tranquilla, e quindi insomma ci vuole secondo me un po' di buon senso. Sì, bisogna un po' mandare a regime tutto, e varrà poi anche per la moviola. Luca Marchetti, ciao! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Dicevamo ultime 77 ore di mercato e una notizia prima ce l'ha data Ausilio, che ha detto sì. Brozovic rimane all'Inter. Non ho capito se rimane in assoluto o se rimane perché non c'è l'alternativa straniera, ma se dovesse venire fuori qualcosa può cambiare. Ma, da quello che sappiamo noi è perché non esiste un'offerta formulata all'Inter né soddisfacente né insoddisfacente. Quindi stavano già ragionando sul rinnovo di contratto, la prima offerta dell'Inter non è piaciuta all'entourage di Brozovic, la seconda forse un po' di più visto che è stata aumentata, Brozovic può anche rimanere, tanto i problemi della lista UEFA dell'Inter sono indipendenti dalla permanenza o meno di Brozovic. Quindi, e anche diciamo, di Jovetic, lo diciamo, perché Jovetic era fuori dalla famosa lista di 2 anni fa. Sì, ma Jovetic comunque partirà perché credo che sia fuori anche dal progetto tecnico di De Boer. Con Jovetic qualche cosa l'Inter riuscirà a muovere all'interno delle liste bloccate che sono state redatte nel momento dello statement agreement. Anche lo stesso Caprari, tanto per dirne uno che sicuramente non era una lista di 2 anni fa, crea un piccolo spazio per l'Inter. Poi bisogna fare il Tetris, lo faranno credo a partire dal 31 sera i dirigenti dell'Inter. Sì, resta il segnale, andiamo a San Siro dal nostro Dario Ricci. Dario. Inter vicinissima al vantaggio, c'è stata un'azione sulla sinistra di Santomi, il cross al centro, Medel ancora una volta in posizione offensiva, si è trovato tutto solo sulla destra tu per tu con Posavec, il destro del cileno, battuto il portiere rosanero, ma ci ha pensato Andelkovic con un intervento di ginocchio alla disperata ma quanto mai efficace a salvare di fatto sulla linea di porta. Prima vera chiara occasione per l'Inter e già poteva essere il vantaggio, ma risultato che non si sblocca. 35esimo di gioco, ancora 0-0 tra Inter e Palermo. E questa, insomma, vi avevamo raccontato la prima occasione per l'Inter. Inter che mi pare di aver capito, Pierluigi Pardo e Luca Marchetti, andrà anche su un difensore, perché insomma forse l'esperienza di Verona ha convinto anche De Boer che serve qualcosa di più. Ma dipende anche da come deciderà di mettere la squadra in campo, perché se la difesa è a 4 magari bastano quelli che ha. Con la difesa a 5 un altro centrale potrebbe, o a 3, mettetela come volete, un altro centrale potrebbe servire. Mi sembra che però l'idea di Verona sia stata per il momento accantonata da De Boer. Forse un difensore arriverà, ma non credo che l'Inter ne avverta l'urgenza, magari la necessità sì, ma non l'urgenza, quindi non credo che sarà un arrivo indispensabile, ecco. Beh, a te piacerebbe ad esempio Pierre Caceres, che tra l'altro può anche giocare sull'esterno, ma Caceres quindi potrebbe aiutare, è un po' come la sora Camilla, sì. No? Come diciamo noi a Roma, ma qualcuno se lo piglierà prima o poi. Sono 3 mesi che sul mercato è piaciuto a tutti e poi alla fine nessuno l'ha preso, qualcuno lo prenderà, sì, non, con tutto rispetto per Caceres, insomma non credo che sia il nome. Poi magari diventa un giocatore funzionale, anche perché sono d'accordo con te, certamente ha una capacità di essere duttile, quindi poter essere impiegato in ruoli diversi, che lo può rendere molto utile, però insomma francamente non credo che, insomma, se la stagione dell'Inter deve decollare, con tutto rispetto per Caceres, mi sembra che siamo lontani, no, dall'optimum, quindi sì, può essere una cosa last minute, un'opportunità tattica. Sì, intanto tra l'altro lo puoi fare anche dopo il 31 agosto. Sì, perché è svincolato, quindi si può fare con calma. Intanto Inter ancora vicino al gol con Perisic, fuga sulla sinistra, finta a rientrare, conclusione che il portiere del Palermo con i pugni ha in qualche modo sporcato in calcio d'angolo, magari che vi raccontiamo in diretta. Dario, eccolo qua, calcio d'angolo da segnalare in azione precedente, il bel lancio di Banega che ora va sulla bandierina, il cross, il colpo di testa di Miranda e pallone che esce davvero di pochissimi centimetri, pensate, la deviazione di Miranda all'altezza della linea dell'area piccola che va a infilarsi tra il giocatore del Palermo appostato sul secondo palo e il ginocchio di Murillo che sul secondo palo proprio si era precipitato per cercare la deviazione, pallone che invece finisce sul fondo, ma è un Inter che dopo la mezz'ora sembra aver rotto il fiato e che sta davvero crescendo, soprattutto nell'intensità e nella velocità di alcuni contrattacchi, soprattutto questi due che hanno portato vicino al vantaggio, risultato che non si sblocca però. Risultato 30, ancora 0-0, sì, ma qualcosa si vede. Approfitto ancora di un minuto, ancora per un minuto di Luca Marchetti, per chiedere 3 cose. La prima, se le parole di De Laurentiis su Cavani chiudono definitivamente al ritorno di Cavani. Posso essere molto diretto? Per me non si era neanche aperta. Non si era neanche aperta. Nel senso che è una bella suggestione del Napoli, non giornalistica, mai sì, ma forse gli ha anche fatto un favore, insomma, di sponda per far immaginare. È stato divertente immaginare o vedere centinaia di persone fuori da Dürrenberghi a Napoli nel corso di 2 mattinate consecutive. Questo testimonia il grande affetto che Napoli ha per Cavani, che credo che Cavani ancora abbia per Napoli, lo ha detto anche recentemente attraverso le parole del suo fratello, però credo che non ci sia mai stata l'intenzione, né tantomeno una telefonata fra De Laurentiis o Giuntoli e Cavani o il Paris Saint-Germain per tentare di capire neanche se era fattibile come operazione. Il Napoli fa un altro tipo di mercato, credo che sia molto evidente, ha speso di fatto tutti i soldi di Higuaín, quasi, per dei giocatori, Giaccherini a parte, molto giovani, che in questo momento sono cotitolari, perché alla fine è difficile anche andare a sostituire i vari giocatori che lo scorso anno hanno fatto un grande campionato, e che il Napoli si ritrova in casa e sono giovanissimi, che hanno 20, 21, 22 anni, ed è questo il mercato che fa il Napoli. Sì, il Napoli fa diventare grandi giocatori in campo. E Cavani è completamente incompatibile con questo mercato. E intanto Inter ancora vicinissima al gol con un altro colpo di testa di Miranda sugli sviluppi di un calcio di punizione. Punizione per un fallo, costato il giallo anche a Alesami del Palermo. Traversone, stacco in anticipo di Miranda, palla davvero a fil di palo sul primo palo della porta difesa da Posavic. La seconda domanda invece è su Montella. Lo abbiamo detto, ha precisato la battuta di ieri fatta Sky sul bonifico dei cinesi, battuta che immagino non sia piaciuta in società. Mi chiedo se però in qualche modo può aver convinto Gagliani a fare qualcosa. Che io credo che l'avesse convinto da prima, nel senso che qualche cosa, secondo me, il Milan, al di là delle dichiarazioni esce uno entra uno, che sono legittime, ma il Milan qualcosa proverà a fare, credo, in difesa, che in questo momento è il reparto in cui Montella ha individuato forse una maggior sofferenza. Lo spazio economico per farlo il Milan sa già qual è, e ci saranno bonifici o numeri particolari da prendere in considerazione. Il Milan sapeva già che avrebbe fatto il mercato con quei soldi lì, ne sono arrivati addirittura 15 in più. Era un mercato difficile, si sapeva. Purtroppo per Montella la cessione del Milan non è arrivata in tempo utile per il mercato. E quindi insomma l'abbiamo sentito ieri. L'acquisto del Milan è Montella. Montella che è chiamato a un compito certamente difficile. Però ma... Pier, se non gli dai qualcosa per dare equilibrio alla squadra, insomma. Sono d'accordo con te, è chiaro. Però insomma, diciamo, comunque io alla fine il Milan i soldi li ha spesi, perché i quattro acquisti del Milan, Pasaric c'è un prestito, quindi non lo consideriamo neanche come un costo, ma gli altri tre alla fine sono stati spesi 25 milioni di euro per la Padula, Gomez e il Principito Sosa, quindi sì, però, comunque il Milan ha fatto delle scelte. Però Luca, perdonami, insomma, fai delle scelte, poi ad esempio resta Bacca e di la Padula non dico che non sai cosa fartene. Certo, sono d'accordo, però... io non sono entrato nel merito, però comunque l'Inter ha speso più o meno quello che ha speso il Milan per prendere lo stesso numero di giocatori, magari non lascia perdere gli ultimi due, che c'è stato un innesto di soldi non preventivabile, neanche previsto, credo, dal fair play finanziario. Poi in questi prossimi mesi l'Inter cercherà di rimettersi in carreggiata, e su questo non ci sono dubbi, però lo sforzo economico di Suning è arrivato proprio nella coda del mercato. Ma fino a João Mario e Gabigol l'Inter aveva speso, credo, 3 o 4 milioni di euro in più rispetto al Milan. Sì, sì, c'era Candreva pareggiava gli altri e poi c'erano saldi in più, diciamo. Per fare il conto della serva, ti devo salutare Luca, perché c'è il traffico. Grazie Luca Marchetti, ciao. Resteremo tutti appesi alla curiosità se si fa o no Canici Gabbiadini, ma insomma siamo qui poi per raccontarvelo anche domani. Intanto c'è ancora l'Inter che sta cercando di accelerare i tempi a San Siro contro il Palermo, 39esimo 0-0. Il traffico, torniamo subito. Tutto il resto, come diceva il Califfo, è noia. Tutti convocati. Tutti convocati. Rispondo a un amico a casa, l'abbiamo detto, Sassuolo è da considerarsi una grande, io non so se da terzo posto, però certamente è una grande di questo campionato, e lo ha confermato anche nel modo in cui si è qualificato ai gironi di Europa League. San Siro per 30 secondi, Dario Ricci. 44esimo di gioco, ancora 0-0, Palermo che ora prova a riprendere fiato con una punizione conquistata all'altezza del centrocampo da Quaison. Sta crescendo di livello tutta l'Inter, in particolare Perisic, che un paio di minuti fa ha offerto una buona palla al limite dell'area di rigore ad Icardi, che però ha sbagliato il controllo riuscendo a conquistare solo un calcio d'angolo che poi non ha prodotto alcunché. Al 39esimo, come ricordavi da studio, il colpo di testa di Murillo, di Miranda Murillo, che ha sfiorato ancora una volta il vantaggio. 0-0, il lancio in profondità, esce Handanovic, Alesam, seguiamo questa azione, Giovanni, perché Alesam si impossessa del pallone sulla tre quarti dopo l'uscita di Perisic, ed ecco, ed è Heidemark che ora prova la conclusione con un sinistro sballato che finisce ben alto sulla traversa della porta difesa da Handanovic. 44esimo di gioco, ancora 0-0 a San Siro tra Inter e Palermo. Sì, 44esimo, ma ci saranno credo almeno 3 minuti di recupero, perché c'è stato il break per le condizioni ambientali a San Siro, ma comunque torniamo a San Siro tra pochissimo da Dario Ricci. ma cribio, cribio, stracribio e ultracribio. Sì. Ma io gliel'avevo detto. Sì, presidente, ma se non mi ascolta, presidente, buonasera, buonasera. Presidente, con buonasera. Chi ce l'ha? Che poi dobbiamo raccontare la partita dell'Inter. Io quindi, sì. avevo chiamato Vincenzo prima della partita del San Paolo, sì. come sempre, sì. per i consigli quotidiani, ai quali nessun allenatore intelligente, coeso e molto positivo sì. rinuncerebbe mai. Sì. Insomma, io gli ho detto come fare sì. per non prendere gol. Ma lei non è più il presidente, quindi non conta nulla. Cosa, no, e Montella fa quello che vuole. Sì. Mi perdoni, che cosa c'entra, sì. Cribio? Sarebbe come dire sì. non sei più sposato, allora non sì. trombi più. Ma no, cosa vuol dire? È che insomma non è più presidente, certo, giusto, per, no? Quindi se uno non è più presidente non può più fare quello che vuole. Guardi, lei Capuano sì. è il solito comunista, no, bolscevico, ma non è vero, ma... non coeso e poco comunque, positivo. Cribio. Comunque, faccia così, ce li dica a noi, quali sono i consigli per non prendere gol? Allora, lui, visto che Montella non li ha ascoltati. Li avevo, allora, se mi lascia parlare, gli avevo ordinato di schierare una squadra coesa, molto positiva e con un'ottima organizzazione di gioco. Sì, più facile di così? Mi sembra tutto un po' generico, Presidente. Io avevo ordinato sì. a Vincenzo come utilizzare certi giocatori come Abate e De Figlio. Sì, magari un po' meno alti, che insomma, cosa dovevano fare invece con Mertens, Calleon? Cosa dovevano Guardi, fare? Ma è semplice, bisognava sì. distrarli con la gnocca, Cribio. No. Gli dici, guarda, lì in tribuna c'è tua moglie con le attive. Ma no, non si quello fa così. Non si fa così. Arrivederci, Presidente, facile. Buonasera. Io gliela avevo arrivederci, detto, arrivederci. Il nostro Andro Mercu. Io saluto subito Michele Plastino. Michele, ciao, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi, ascoltavo sorridendo. Sì, sì, però. Ciao, sì. Però pensa Ciao. Che il prossimo allenatore del Milan non ha più questo problema di Berlusconi. Sono passi avanti. Non si sa mai, No. Cioè, non sappiamo nulla. No, mai, certo. Fino al 5 novembre noi restiamo qui ad osservare. 30 secondi, 30 da San Siro da Dario Ricci, che c'è qualcosina da raccontare. Pure quel gioco, Dario. Mario, quell'intensità. Dario? Eccomi, scusate, stavo qua preso con Maurizio Pizzoferrato, sì. amico e collega di Aria, proprio per alcune riflessioni tattiche, cercando di inserire. Sì, però dammi in gli ultimi fase. 30 secondi, che sì. c'è qualcosa da raccontare. No, non più, perché ha fischiato in quest'istante Russo la fine del primo tempo. Dicevamo che stavamo cercando di trovare spazio a João Mario in quest'Inter sì. così opaca di questo primo tempo, se non nel quarto d'ora finale. Adesso scatta la discoteca come ormai abitudine, però è sufficientemente bassa per ricordarti lo 0-0 con cui si è chiuso questo primo tempo e la buona Inter che comunque si è visto nel quarto d'ora finale almeno quattro occasioni, la più nitida con Medel che si aveva battuto sì. Posavec, ma ha trovato il ginocchio di Andelkovic sì. a salvare anche se mi pare poter sintetizzare tutto abbastanza casuale, insomma c'è tanto da lavorare. Michele Plastino, credo anche per la Roma, io non so che impressione ti ha fatto, chiedo anche a Pierluigi Pardo, ascoltare ieri Spalletti fare un po' di autocritica, ma credo soprattutto temere il contraccolpo psicologico dell'eliminazione dalla Champions. Parto Michele. Io? Sì. Vai. Intanto saluto anche Pier, che avevo sentito poco fa. Allora, guarda, io credo che tra l'altro a Roma vivono proprio due situazioni contrapposte da un punto di vista psicologico, perché nella Roma è inutile negarlo, per Luigi conosce bene l'ambiente romano, la pressione è quasi sempre forte e quest'anno lo è ancora di più a mio avviso, perché c'era l'aspettativa per quello che riguardava la qualificazione in Champions e più che aspettativa si aveva un po' una sensazione quasi di certezza. Reagire a quello non è facile. Spalletti è tornato dalle esperienze internazionali un po' più complicato di prima da un punto di vista psicologico. Non è sempre facile capire le sue reazioni, se sono a volte con il capo cosparso di cenere, perché è stato criticato tantissimo per questa partita, forse anche oltre il dovuto, per cui questa sua reazione non si capisce bene se è un'ammissione di colpa o è anche una specie di reazione, perché poi si rivolge direttamente ai giornalisti, fa gli esempi con loro, è una fase di direi molto coatta psicologicamente, cioè la Roma in questo momento o si sblocca o corre dei rischi, perché c'è la pressione. È anche la prima volta che viene un po' messo sotto processo da quando è tornato, cioè fino perché a mercoledì ha viaggiato sulle ali dell'entusiasmo, era l'uomo con in mano tutto. Banalmente è un po' quello che diceva Spalletti nella conferenza stampa prima del match col Porto, aveva detto sono 8 mesi che lavoriamo per questa partita, ed è un po' questo, cioè Spalletti ha fatto 8 mesi molto buoni, 7 mesi molto buoni, ha avuto nel girone di ritorno dei numeri straordinari, praticamente da scudetto, però poi alla fine tutto questo produrre gioco, produrre qualità, produrre emozioni, aspettative, alla fine poi si è tranto in una notte completamente sbagliata, quindi è chiaro che adesso, io francamente penso che adesso esagerare con le critiche nei confronti di Spalletti sarebbe un errore clamoroso, perché comunque rimane la bontà di quello che Spalletti ha portato a questa squadra, che è tanto, però ci sono delle cose che mi verrebbe a dire succedono solo a Roma o quasi, cioè vedere la squadra che alla prima difficoltà si spalda come è successo contro il Porto è incredibile, vedere un giocatore come Daniele De Rossi, che pure tante altre volte, soprattutto in nazionale, abbiamo elogiato, un giocatore di grandissima esperienza, fare un intervento di quel tipo quando c'è ancora tutta la partita da poter giocare è qualcosa di incredibile. È incredibile. Ma voi che Roma vi aspettate? Parto da Michele Plastino questa sera. Trasferta difficile, ma dal punto di vista soprattutto della tenuta psicologica, perché poi il punto è quello, ha ragione Pier. Michele. Guarda, io me l'aspetto estremamente aggressiva, perché altrimenti comincerei a parlare di una Roma depressa con le fasi maniacali, no? Estremamente isterica per quello che riguarda la partita di Champions. Se oggi si mettesse lì ad aspettare il Cagliari per ripartire, darebbe un'idea, direi, quasi di inferiorità. No, io penso che la Roma aggredirà, cercherà subito di stare nella metà campo avversaria, anche come valore psicologico. Lui li deve caricare così, gli deve dire non devono superare la metà campo, ma attenzione, perché il Cagliari poi ha dei valori, e qui bisognerà pesare appunto quanto tenga questa forza psicologica. Aggiungo solo una piccola cosa su Spalletti: è chiaro che Spalletti poi sta pagando, e chi può essere da una parte che dall'altra. Roma è una città molto passionale, si vivono i derby nei derby, anche tutto quello che era successo con Totti, cioè c'è stata grande polemica anche con i giornalisti, con tutti, quindi io ho avuto un po' la sensazione che Spalletti fosse atteso al varco. Si era fatto qualche nemico. Grazie Michele. Ciao Michele. Grazie a voi. Ciao, grazie Michele Plastino. Mentre devo dire che con valori che sono sicuramente meno importanti, perché io penso che la Roma arriverà sicuramente sopra la Lazio, però ieri abbiamo visto una partita e abbiamo visto l'inizio di stagione di una squadra che con i suoi limiti, con le sue difficoltà, però secondo me si sta mettendo sulla buona strada. A me ieri la Lazio è piaciuta molto, e soprattutto sono arrivate risposte da parte di giocatori giovani come Bastos e come Lukaku, secondo me molto interessanti. Quindi insomma la Lazio è partita invece con una depressione totale, i famosi 11 abbonati, Bielsa che non arriva, la contestazione allo dito, lo sappiamo, praticamente storica. Mi sembra onestamente una squadra che si stia allineando, secondo me, serenamente per conquistare un posto in Europa League. Sì, ha fatto una bella partita, hai ragione, hai perfettamente ragione. Grazie Piera, a domani. Ciao. A domani dopo il GR delle 14, che è anche l'appuntamento che do a tutti voi, mentre con Dario Ricci nei nostri punti informativi continueremo a seguire Inter Palermo e poi tutte le partite di questa serata, della seconda giornata del campionato di Serie A. Io ringrazio Giovanni Melchiori in redazione, Filippo Aureggi e Valeria Bernardi. In regia l'appuntamento è domani dopo il GR delle 14 con tutti i convocati, mentre domenica prossima torniamo alle 17 come tradizione. Ciao. Buonanotte, vado a riposare perché devo dire la verità, sono cotto stasera.